Barisone è diventato vicepresidente, né? Crucia, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto, per carità. Il vecchietto, dove lo metto? Sempre nelle prescrizioni, l'attività socialmente utile di volontariato è specificata presso l'Istituto per Anziani indicato dall'UEPE, con impegno di almeno una volta alla settimana e per un tempo non inferiore a 4 ore consecutive, secondo le modalità che verranno concordate con l'UEPE. Guardandolo con un sorriso fesso. È stata applicata al condannato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Nelle prescrizioni lo stesso non potrà, salve specifiche autorizzazioni, lasciare la regione Lombardia, ma è autorizzato, come da sua richiesta, a recarsi in Roma presso il domicilio da lui indicato nei giorni dal martedì al giovedì, con rientro al suo domicilio in Lombardia entro le ore 23 del giovedì stesso. Allora, non sapendo cosa fare, ha fatto quello che può fare un pazzo, con una corda al collo in fondo al mare. È finita così, caro Parenzo, è finita così con Berlusconi che potrà fare campagna elettorale. Lui però pare depresso, pare molto depresso. Sembra che sia andata di lusso, Sembra sia andata di lusso, sembra. Come stai? Io ti parlo da Come Strasburgo. Stai? Sì, lo so. Guarda, lo so. Sono qui a Strasburgo, al mio fianco c'è un grande ospite, se vuoi te lo presenterò, se no lo lascio qui in silenzio. No, lascio in silenzio. Deciderai tu. Lascia in silenzio che è meglio. Sì, lascia in silenzio. Baresi, il capo delle relazioni. Non me ne può fregare di meno, Non me ne frega niente. No, non me ne frega assolutamente nulla. Sì, sono maleducato. No, ma è arrabbiato perché doveva esserci lui, capito, quindi. Ah, ecco, ho capito. Come dicono a Roma, rosica, sai. Rosica. Lo so, hai ragione. E ho incontrato la signora Le Pen poco fa. Che ti ha detto la signora Le Pen? Che ha abbracciato Matteo. Le ho chiesto se lei usa gli strumenti della propaganda nazista quando parla dell'Europa. Si è un po' sconcertata. Come si dice. A proposito, io continuo a difendere Beppe Grillo per quello che ha fatto ieri sul suo sito. Cioè, le proteste della comunità ebraica, le proteste della sinistra italiana, le proteste di una parte del mondo intellettuale giornalistico sono ridicole. Grillo ha utilizzato un simbolo. Ti piace offendere? Senti, non ha offeso nessuno, Grillo, capito? Non ha offeso nessuno. Posso dirtelo io che sono nipote di uno che è stato in un campo di concentramento? Ma non me ne frega niente. Io... Che vuol dire? Scusa, perché non ho capito. Tu sei uno stronzo. Io mi sono sentito profondamente offeso. Vabbè, pazienza, perché mia nonna ce ne faremo. È stata in campo di concentramento. Ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione. Spettacolare. Ce ne faremo una ragione. Non hai ormai alcun minimo di sensibilità. Non è vero. Allora, sentiamo nulla. Quello che ha detto Gattegna, che credo ha offeso. Per te ha offeso, per me no. Abbi Ma pazienza. Non per me! Non per me! Va bene, ha offeso, va bene, d'accordo. Ha offeso. Appena gli tocchi questa cosa, fibrilla. Ma questa cosa, mia nonna è stata in campo di concentramento e io non permetto. No, che ma un io comico dico... da quattro soldi, va bene, ma tutti e che una parte e che anche una persona come te che lo fa solo per provocare giustifichi una io non faccio per senti, simile io solo no, per provocare lo no, fai lo fai solo no, per provocare no. Perché sai anche tu che è una stronzata. Vabbè, abbiamo toccato sai gli ebrei anche tu che c'è abbiamo un toccato gli tutto. Io sono come non sai gli ebrei i campi di concentramento va bene, abbiamo toccato la Shoah e allora non si può parlare puoi dire quello che ti pare come sempre ma non puoi pretendere che le persone non si incazzino per queste va bene e allora basse. Sentiamo Grillo cosa ha detto vediamo se ti soddisfa la risposta di Grillo, vabbè. Vediamo se ti soddisfa la risposta di Grillo su questo. E Arbeit macht frei, che vuol dire il lavoro rende liberi. Oggi il lavoro fa più vittime, fa molte più vittime, e la P2 rende liberi. Ho voluto dire che la P2 rende liberi. Se lei si fossilizza sul fatto che io possa prendere in giro, posso usare la Shoah a scopi elettorali, come è stato detto, vuol dire che questa è una menzogna che io respingo. Quindi respingo anche il portavoce, non la comunità ebraica. Ma in questa chiave di lettura lei si sente di chiedere scusa quindi agli ebrei? No, io non chiedo scusa, perché se la vostra interpretazione dovreste chiedere scusa. La vostra interpretazione. Va a finire che non c'è posto, forse neppure... A me sembra corretto quello che dice, assolutamente corretto. Ancora Grillo su questa questione di Auschwitz utilizzato, il cartello di Auschwitz, la scritta di Auschwitz utilizzata per parlare male, per attaccare Napolitano, Grillo e forse una terza persona che è identificabile con la Boschi. E guardate che Levi mi ha insegnato una cosa, che queste grandi ideologie non sono morte, perché la Shoah è dietro l'angolo e ne succede una, forse una al mese, una all'anno. Dal Ruanda, le guerre in Siria, i gas in Siria, succedono ogni giorno, ai morti 4.000, a un sistema finanziario, bancario finanziario che fa migliaia di morti all'anno. È questa, abbiamo Shoah da tutte le parti, dobbiamo stare attenti e non abbassare le difese. Questo mi ha insegnato Levi. Io ho scritto quello, non ho fatto battute, ho fatto ironia su una cosa così. Mi manca solo ormai l'estrema unzione. Eccoci qui, 800 24 00 24, con David Parenzo in collegamento speciale da Strasburgo, ma abbiamo con noi un grande ospite, caro David. Poi entreremo in polemica su questo più avanti, perché qui alla Zanzara, una persona che sembra lui ma non è lui, ha la stessa voce, non lo potete vedere ma è praticamente uguale, essendo il fratello gemello, il fratello di Marcello Dell'Utri, Alberto Dell'Utri. Buonasera. Come sta? Sto raffreddato, quindi sono un Marcello raffreddato. La voce sarà leggermente diversa. Può fare una gentilezza? Le assicuro che è uguale. È uguale. Può ripetere: ottima trasmissione, sempre la migliore, così facciamo il confronto, il fact checking. Perché suo fratello ci disse una volta: ottima trasmissione, sempre la migliore. Faglielo sentire. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Beh, uguale, è identico. È identico. Senta, diciamo che è Marcello Dell'Utri. Come va lì a Beirut? Facciamo tutto. Come così. Va a Beirut? Bene, non c'è male. Tempo bello, sono qui in una magnifica suite che mi hanno messo a disposizione. Ma la tengono bene gli uomini dei servizi segreti libanesi, perché pare che lei sia custodito in una sede dei servizi segreti libanesi, dell'intelligence, non so che cosa. La stanno tenendo bene? Benissimo, sono tutti gentilissimi, non mi fanno mancare nulla, poi soprattutto ho le cose che più mi interessano, sia i libri. I libri? No. Certo. È lui uguale. Dai, vabbè. Lui. Allora, Alberto Dell'Utri, il fratello gemello di Marcello Dell'Utri, l'hanno mai scambiato per telefono? Ha mai fatto qualche scherzo a posto di suo fratello o no? Sì, abbiamo fatto degli scherzi da ragazzi e per telefono... No, più che altro fisicamente abbiamo fatto degli scherzi. Cioè anche a Berlusconi, per esempio? Sì, come no. Ci siamo divertiti. Potrebbe andare lei in carcere al posto suo, al posto di nessuno se ne accorgerebbe, al posto di suo fratello. Sicuramente. Se mai dovesse andare in carcere, perché poi. Sì. Ma secondo lei suo fratello teme il carcere o no? No, nella maniera più assoluta. Non lo teme? No, non lo teme. Voglio dire, teme dell'evento chiaramente, ma non teme poi l'evidenza dello starci. Cioè la detenzione non la teme, cioè non è un'ipotesi, non è una cosa che lo fa angosciare, l'idea di andare in carcere. Certo, l'idea lo angoscia, ma poi ne prende atto e sicuramente ha una statura morale che gli consente di superarla questa situazione. Senta, mi sembra che lei, da quello che ho letto, è molto pessimista sull'esito della Cassazione che è stata oggi rimandata, eccetera, eccetera. Non mi pare molto ottimista, mi sembra. No, io ho detto che mi sembra difficile che smentiscano 20 anni di sudato lavoro, di pagine, migliaia di pagine scritte da gente che si è impegnata in tutto questo, da intercettazioni a non finire. Ma come fanno a smentire 20 anni di questa attività? Impossibile, secondo lei? Cioè, io mi auguro che succeda, però mi sembra difficile soltanto ragionare così, razionalmente. Certo, senta, Dell'Utri, ma suo fratello è perseguitato, secondo lei, dalla magistratura? Ma da una parte sicuro. Da una parte, beh certo, da quelli che lo accusano. Certamente, da una parte della magistratura. Ma per quale motivo? Perché è amico di Berlusconi? Perché ci sono... per questo? Perché è chiaro, io l'ho già detto questo, perché si è permesso di organizzare un colpo di Stato. Addirittura? E beh, che cosa è stato? In tre mesi si è conquistato il potere. Ah, lei dice il colpo di Stato nel 94, dice lei. Nel 94 è stato un colpo di Stato, senza spargimento di sangue, naturalmente. Un colpo di Stato contro i poteri di un tempo? Contro la gioiosa macchina da guerra che già si era oleata tutti gli ingranaggi per poter partire. Sì. E invece è rimasta in garage. Senta una cosa, ma io voglio capire, alla fine in Libano per cosa ci è andato? Poi andiamo sulla storia delle telefonate, le intercettazioni, Assunta Madre, eccetera. Ma in Libano perché ci è andato? Lei ha detto per commerciare in cedri, no? Ma no, io ho dato una battuta di spirito che la giornalista invece non ha percepito e ha scritto così come gli ho detto. Gli ho detto sorridendo, dico, perché mi ha chiesto cosa è andato a fare in Libano. Dico, che ne so, commerciare in cedri, penso. Cioè lei non sa perché è andato in Libano? Sì, lo sa, scusi. No, lo so, nel senso che so che è andato, ma lui mi ha chiamato dicendomi per telefono sempre sono a Beirut. Ma perché ci è andato? Perché è inviato da Berlusconi? Per motivi di salute? Per fare commerci? Perché il figlio vuole aprire case? Guardi, una di queste ipotesi possibile, ma io non lo so, perché a me non ha detto niente. A me ha detto che è andato in Libano, ma penso che abbia degli interessi anche lì, culturali, credo, culturali. Qualche libro, non lo so, penso. No, ma perché con 30.000 euro anche, più che altro? Vabbè, ma quello sono affari suoi. Magari doveva acquistare qualcosa, qualche libro, qualche... Ma mica è un reato portarsi 30.000 euro dietro, cioè, no, però c'è la carta di credito. Ma secondo lei non stava organizzando una fuga e poi è andata male? No, impossibile. Ma scusi, ma la fuga di un cretino sarebbe stata organizzata questa. Questo è vero. Anche questo è vero. Cioè usando le carte di credito e tutto, lei dice. Ma scusa, la fuga, uno per nascondersi se ne va in un grande albergo con il suo documento, la sua carta di credito, con la sua faccia, eccetera. No, ma magari pensava di avere qualche contatto lì che poi è saltato. Ma scusi, ma il contatto se lo sarebbe cercato già da tempo, l'avrebbe trovato e sarebbe andato eventualmente a nascondersi in casa di questo o di quel contatto. Senti, cosa che non ha fatto, quindi. Scusi una cosa, poi c'è il traffico. Secondo lei, anzi, lei spera che non torni in Italia? Io, è una domanda interessante questa qua. Perché? Cioè lei spera che non torni in Italia, che alla fine, no, che ne so, per un motivo o per l'altro ce la faccia a non essere estradato? No, io spero solo che lui si senta bene dentro e che prenda la decisione che più lo fa stare a suo agio. No, ma per lei, per il fratello gemello Alberto Dell'Utri, che cosa preferisce lei? Che vuol dire che resti in Libano e in qualche modo riesca a scampare all'estradizione oppure no? Perché in Italia il carcere... Io penso che tornerà senz'altro, io penso che tornerà, perché non è una persona che sfugge di fronte a una responsabilità. E comunque sia, la sentenza finale è un atto di responsabilità che lo mette di fronte appunto a una situazione precisa. Non ce lo vede come quello che fa una battaglia giuridica per evitare l'estradizione? La battaglia giuridica non per evitare l'estradizione, non credo, non ce l'ho. Se ci fosse una condanna definitiva, tornerebbe, ma sarebbe tornato da solo senza bisogno di fare tutto questo cinema. Un attimo solo, traffico, poi torniamo. Alberto Dell'Utri, che non è Marcello Dell'Utri, anche se ha la voce uguale, voi non lo potete vedere, ma è identico, essendo pure fratello gemello. Però non è detto, perché i fratelli gemelli non è detto che siano poi, non è scontato che siano così uguali nella voce, nel corpo, nell'anima. La Zanzara. Le zanzare di casa. Allora, nel giorno in cui a Berlusconi vengono ufficialmente dati i servizi sociali presso una struttura a Cesano Boscone, tra l'altro, Parenzo, Cesano Boscone è anche il luogo di residenza di colui che tirò la statuetta del Duomo in testa a Berlusconi. I casi della vita, caro Alberto Dell'Utri, fratello gemello di Marcello Dell'Utri. Certo che a Berlusconi da un certo punto di vista va meglio, perché sì, la condanna pure lui, però alla fine rischia meno rispetto a suo fratello, no? Ma penso di sì, almeno attualmente. Al massimo si fa i servizi sociali, certo non rischia la galera. No, no, spero di no. Ma qui non ci abbiamo certezza di nulla. Senta, Alfano che annuncia da ministro degli interni la cattura di suo fratello, è una cosa che l'ha colpita, come lo giudica questa cosa qua? Ma è nell'esercizio delle sue funzioni. Solo questo, non è una cosa in cui secondo me ha goduto un po' Alfano nell'annunciare questa cosa, o no? Ma se poi in cuor suo abbia goduto o meno, questo non posso saperlo, non ho idea. Però non è stato uno sgarbo ulteriore l'annuncio ufficiale, se ne poteva fare a meno o no? Ma io penso che come ministro e come leader di partito in procinto di iniziare la campagna elettorale avrà approfittato della cosa per... Ha approfittato per... Beh, penso, ma giustamente forse umanamente non è nemmeno... comprensibile. Allora io voglio chiedere una cosa, è vero o no? Facciamo questa domanda. Ma lei sulla voterà Forza Italia, ad esempio? Così, per lei voterà Forza Italia, dice Parenzo? Alle prossime europee? Ma io sono Forza Italia. Beh, come? Io sono uno di quelli che ha fondato, non che ha fondato, ma che ha iniziato, che ha partecipato alla... Come suo fratello? Come mio fratello è stato l'organizzatore capo. Io avevo un incarico nel centro-sud di reperire i candidati che servivano per le campagne elettorali. Che per cui non è in dubbio il fatto che lei voti Forza Italia adesso alle europee? Io voto, se voto, voto Forza Italia. Certo. Sempre se vota, certo. Ma logico. Chi dice... dovevano candidarlo forse, Beh, non hanno più, a un certo punto non hanno più candidato al Senato. Lo so, però pensandoci oggi soprattutto... Pensandoci oggi quello potrebbe essere... Sarebbe stato giusto, no? O no? Candidare mio fratello a... Sì, alle scorse elezioni, sì. Sì, penso di sì. Penso che ci sia rimasto male a suo tempo. Sarebbe stato meglio candidarlo, diciamo. Forse si poteva proteggere di più, o sbaglio? In nome dell'amicizia, dico anche, se non altro. Sì, no? Ecco, esatto. Diciamo, sottolineiamo la parola amicizia, che... Un po'. Senta, ma insomma, alla fine è vero o no che lei progettava la fuga di suo fratello in Libano, Guinea-Bissau, eccetera? Questa storia delle intercettazioni al ristorante Assunta Madre, oppure erano là, anche là delle battute? Sembrano chiare alcune intercettazioni, Sì. Beh, no, ma posso mai dire che progettavo la fuga di mio fratello? No, prima di tutto non sarei stato io a progettarla, ma avremmo scelto qualcuno più stratega. Sì, vabbè, certo. No, eventualmente se lo sarebbe scelto mio fratello. Vabbè, però lei parlava di questa possibilità di fuga con alcune persone in Guinea. Si parlava di fuga in generale, di fuga di chiunque, perché da questo paese vogliono fuggire tutti. Tutti parlano: ah, io me ne andrei, io qua, io là. Ma lei pure se ne andrebbe? Sì, ma dove vado? Ma perché è un paese di merda questo qua, l'Italia è un paese... No, questo è un paese stupendo. E allora perché uno vuole... Quello che esiste. E uno perché... Ma se non si può andare neanche al ristorante a mangiare tranquilli, a parlare in libertà con gli amici. Insomma, lei dice che i magistrati, le intercettazioni rendono questo paese invivibile, la magistratura. Assolutamente. Che ne so io. Ma lei spera davvero che Libano... No, voglio tornare sull'estradizione. Spera che Libano non conceda l'estradizione, sì o no? Ma io non lo so, qui è un fatto legale, non entro nel merito di quello che saranno... le valutazioni che dovranno fare. Ho capito. Non sono addentro, non potrei dire delle cose precise. Gliene importa anche poco, mi immagino. Mi interessa naturalmente l'esito finale che riguarda mio fratello. Però ci ha già detto che secondo lei tornerà. Senta, un'altra cosa, ma anche per lei Mangano, per come si è comportato, resta un eroe? Come ha detto più volte suo fratello? Guardi, mio fratello avrebbe dovuto precisare meglio questo pensiero. Cioè, Mangano era... uno che si è comportato da eroe, poi poteva essere un delinquente, poteva essere quello che era, però si è comportato da eroe, questo è verissimo. Anche secondo lei? Ma certo, ma uno che sta al carcere, come si chiama, il 41 bis, un carcere terribile, nel senso che lei non può vedere la televisione, non può leggere, non può incontrare, vedere i parenti, non può parlare con nessuno. Cioè, ma chi è che ha la capacità di resistere in una situazione del genere? È una cosa terribile. E lui, il fatto che non abbia parlato, lei dice che non abbia parlato, è il fatto che si sia rifiutato di dire le cazzate che gli chiedevano di dire, non che non abbia parlato, si è rifiutato di dire quello che che avrebbero voluto che lui dicesse, e cioè mentendo. Dunque si è comportato. È dunque in questo caso si è comportato da eroe. Ma sicuramente si è comportato da eroe. Io non lo so se. Io forse non sarei stato capace. Io avrei detto il film in bianco, quello che cazzo volete, basta che mi fate vedere i miei bambini, basta che mi fate vedere l'aria, basta che mi fate vivere. Capito, Parenzo? Sì, ma è chiaro, il fratello mi pare di una lucidità. Quando è che l'ha sentito l'ultima volta? L'8 aprile mi ha chiamato da Beirut, mi ha detto sono a Beirut. Sì. Mi ha chiamato perché l'8 aprile è il mio onomastico, siccome ci telefoniamo, per sai che al sud si sta più attenti all'onomastico che al compleanno. Ma lei al posto di suo fratello in tutti questi 20 anni ce l'avrebbe fatta a resistere o sarebbe morto al posto di suo fratello dopo quello che è successo? I processi, le cose? Ma no, ce l'avrei fatta anch'io. È perché avete la tempra, avete la tempra. Ma che ne so, ci abbiamo una filosofia. La bellaccia. La filosofia più che la tempra. È una questione di testa. A presto, grazie. Grazie a lei. A presto. Giornale Radio, era Alberto Dell'Utri, non Marcello, non Marcello, c'ha la voce uguale, non vi confondete, era il fratello gemello qui a Radio 24. Però è uguale, spiccicato, identico pure nella voce. Rimettetemi la voce che ha fatto lui, quella là di prima. Ottima trasmissione. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Questa chi è? Dell'Utri vero o del Marcello? Dopo mettetemi Alberto, no? Ma dopo. La Zanzara. Ancora a casa, Simo. Allora, caro Parenzo, davvero i due personaggi, Alberto Dell'Utri e Marcello Dell'Utri, sono indistinguibili l'uno dall'altro, diciamo la verità, no? Uguali, uguali, sputati, precisi. Allora, secondo voi chi è quel primo? Il primo? Ottima trasmissione, sempre la migliore. E il secondo? Ottima trasmissione, sempre la migliore. Vabbè, io lo so perché adesso certo. È facile, adesso è facile. Però se tu lo senti la prima volta, sono identici. Comunque ha detto che secondo lui Mangano è un eroe, hai sentito? Sì. Ha ribadito la stessa cosa. Vabbè, ho capito, non è che i fratelli gemelli devono pensare per forza allo stesso modo, No, però voglio dire, è legatissimo al signor Marcello, ha fondato con lui Forza Italia, non penso che possa dire qualcosa di diverso. Grillo, no? Su Berlusconi e Dell'Utri, sentiamo. Grillo. Tuo amico Grillo. La fine di queste persone che hanno condotto l'Italia al disastro, che sono stati importanti, parlo di Berlusconi e Dell'Utri. Dell'Utri è lì, sappiamo benissimo e sapete bene che non tornerà mai, forse è pericoloso la sua tornata in Italia, può essere pericolosa per lui, quindi non lo so, però è uno che ha traghettato la mafia attraverso Publitalia, attraverso Forza Italia, con il riciclaggio di denaro, è stato condannato. Non sono uomini Dell'Utri e Berlusconi, fine miserabile, ignobile. E questa fine miserabile che farà, la fine scappare, non sono neanche uomini venire tornare e dire sono qua, mettetemi in galera, questo metto che va fa mezz'ora, mezza giornata alla settimana, è una fine ignobile, neanche da uomini, io sarei andato in galera, avrei fatto un discorso e mi sarei fatto arrestare e mettere in prigione. Questi non sono neanche uomini, fuggono, cambiano le leggi. Poi se la prende a proposito della vicenda della Shoah con i comunicatori stupidi e ignoranti della comunità ebraica, caro Parenzo. Comunicatori stupidi e ignoranti perché hanno travisato il suo messaggio su Auschwitz per criticare, ripeto, Auschwitz, P2 e Nacht Frey, per criticare Napolitano, forse la Boschi, Renzi, ha utilizzato le parole di Primo Levi e il simbolo della Shoah, cioè il cancello di Auschwitz. Ma secondo me, non secondo Parenzo, secondo me non l'ha fatto offendendo gli ebrei e la comunità ebraica. Ha utilizzato semplicemente quella scritta di Auschwitz, ma non per denigrare la comunità ebraica. Ora, non si può utilizzare quella scritta di Auschwitz, che è stata utilizzata in mille formule, eccetera, eccetera, per fare politica, per fare provocazione politica, per fare campagna elettorale. Ma questo, secondo me, questo no. può darsi che tu abbia ragione. Secondo ma il punto me è di cattivo gusto. No, d'accordo, può darsi, però perché uno si deve sentire offeso? Perché ti sei sentito offeso? E questo voglio capire. Perché? Perché una cosa perché? È dire aspetta un attimo, una cosa è dire non sì. doveva farlo perché è di cattivo gusto. Una cosa è che Grillo ha offeso la memoria di quelli che sono morti. Qui non ci siamo, amico mio. Non mi sembra che abbia offeso. Dimmi. Se tu prendi un simbolo come quello nel mondo, ma per molti che ci hanno sofferto, che hanno perso dei parenti allora? E quant'altro, lo prendi e lo usi per la tua bieca propaganda. Ma perché politica, bieca propaganda? Perché bieca? Addirittura rigiocando sull'Arbeit McFry con quella stupidaggine della P2, cioè addirittura cambia con un Photoshop. Ma tu vai, il ma tu vai nel contenuto dell'Olocausto. Tu stai andando nel no, questo sto dicendo. Sto dicendo che ha piegato e usato quella roba là per la sua campagna elettorale. Ma sì, ma perché ti sei sentito offeso? Perché ti sei sentito offeso? Non ho capito. Perché lì dentro delle persone sono morte. Ma che vuol dire? Ma nessuno lo mette in dubbio. Nazismo. Ma non l'ha offese queste persone. E lui usa quel simbolo per la sua. Ha offeso la memoria di quelle persone, secondo me. Poi in più ti sei scaldato. Sentiamo Grillo su questa roba dei comunicatori stupidi e ignoranti. Io non chiedo scusa a nessuno, non mi sembra di aver mancato di rispetto a nessuno, ho amici in tutte le categorie, di tutte le etnie, di tutte le religioni, io sono aperto al dialogo in qualsiasi cosa, non sono aperto a dei comunicatori a cui loro fanno fede, che sono stupidi, ignoranti e poco intelligenti e danneggiano la comunità, quelli che si sono presi come espressione dell'informazione della comunità. Allora Paolo Becchi, il professor Paolo Becchi, ex ideologo molto vicino al Movimento 5 Stelle, dice: non c'è alcuna profanazione della Shoah nel post di Beppe Grillo. All'inizio sarebbe stato però più efficace scrivere Euro Macht Frei. E io sono. Questa è l'opinione di Becchi sull'euro. Però questa è l'opinione di Becchi sull'euro. Ma non c'è alcuna profanazione della Shoah. Cioè, se uno mette un cartello togliendo una parola e mettendone un'altra senza offendere gli ebrei, senza offendere l'Olocausto, tu lo sai quanto mi sarei ribellato io di fronte a una cosa del genere. Io non d'accordo, penso. Ma io non ho detto che non ho usato la parola profanazione. Beh, sì, hai detto mia nonna è morta, i miei parenti. Ho detto che mi ha offeso profondamente vedere quel simbolo stuprato e utilizzato. Ma perché per stuprato? Perché stuprato? Mica la storia. Visto che lì dentro sono morte 6 milioni di persone. Ma nessuno ha offeso quei milioni di persone morte. Vabbè, titoli del TG3, dai. Se giochi addirittura col simbolo. Vabbè, titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Il tribunale ha deciso Berlusconi affidato ai servizi sociali, giudici pericolosità sociale diminuita ma rispetti le istituzioni. L'ex premier lavorerà in un centro anziani un giorno a settimana, due volte potrà andare a Roma e dovrà rincasare alle 11. Sangue in Ucraina, almeno 4 morti nell'attacco dei militari di Kiev contro i filorussi, il paese sull'orlo della guerra civile. La borsa fredda con le nomine nelle aziende, titoli in calo, ma per il premier è un successo, sia anche dalla stampa estera. Europee, Grillo contro Renzi e Berlusconi, chiudere Equitalia dopo il post sulla Shoah, non chiede scusa alla comunità ebraica. Rinviata al 9 maggio la sentenza della Cassazione sulla condanna di Dell'Utri, legali contro l'ordinanza di custodia cautelare. Dopo il caos delle possibili provette scambiate al Pertini di Roma, una coppia presenta denuncia: se gli embrioni erano nostri, sono nostri anche i figli. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Infame perché offende la memoria di milioni di innocenti che sono stati uccisi in modo atroce. Criminale per le conseguenze che può produrre. Allora, il poliziotto indagato per il calcio alla ragazza, caro Parenzo, sai cosa ha spiegato oggi? Cosa ha detto? È indagato per lesioni. Io spero che ci siano altri indagati, Spero che ci siano altri indagati, non solo quel poliziotto lì, altri indagati per le devastazioni. Spero presto, con le foto, con questo le indagini, eccetera. È un altro filone. No, è un altro filone, però spero ci siano. ha detto pensavo, si è difeso dicendo che pensava fosse uno zainetto, uno zainetto, pensavo borsa. Di aver calpestato uno zainetto abbandonato in strada. Sì, e non ho visto la persona stavo guardando in aria. Tu non ci credi, tu non ci credi ovviamente. Devo dire, non ci credo nemmeno io, Non io penso che nella concitazione di quei momenti qualcuno, cioè lui, si è fatto prendere la mano. Ma questo è un giudizio di uno che non era là e che ha visto semplicemente una foto e ha letto dei commenti. Fine, quindi non faccio inchieste. Però un sospetto mi viene. Dai, un sospetto. Certo che questi qui. A me viene un sospetto. Ma tu lo sai, carità, tu lo sai che questa. Tu lo sai che non questa. Non la voglio in galera. Questa ragazza che si chiama Deborah Angrisani, che ha 20 anni, 22, è iscritta all'università a Scienze della Pace. A Scienze della Pace. Cioè, ma uno che si iscrive. Uno, no, che. Ma sei iscritta a Scienze Politiche, no, con la a Scienze. No, Scienze della Pace. Scienze della Pace. Cioè, oggi esiste una facoltà in Italia che è Scienze della Pace. Sì, ma il problema non è la. No, ma è una cosa incredibile. Certo che non è quello il problema. Capito, ma se lei vuole laurearsi in Scienze della Pace. No, poi magari va a rompere i coglioni in strada perché non trova lavoro, capito? Perché si iscrive, no, a Scienze, vabbè, della Pace. Questo. A Scienze della Pace. Uno può anche laurearsi, dai, in scienza di bubù, ma se c'è, no, un poi un vai a rompere i coglioni in bubù, dai, no, ho capito, però dopo non puoi se dire l'università, c'è la disoccupazione, il corso di laurea è in bubù, ma non puoi dire, cioè, come fare la zanzara in modo bubù e fai un corso di laurea su quello, su il problema non sarà solo di, no, d'accordo, però il problema è che dopo non vai per strada a protestare perché non trovi lavoro e c'è il diritto al lavoro, capito? Se ti iscrivi a Scienze della Pace, amica mia, non vai a protestare per il diritto al reddito, alla dignità e il diritto alla casa e ti iscrivi a Scienze della Pace. Ma non sarà corso, dai, di laurea in scienze politiche, scusa, ma no, Scienze della Pace. Ezio da Catania, dai, Ezio da Catania. Sì, salve Cruciani, volevo dirti che nonostante ti approvi, togli il viva voce. Non c'è il viva voce. Vabbè, allora vai. Volevo dire che sul caso Grillo hai preso un granchio questa volta. Avrò preso un granchio, ma la penso così. Grillo è chiaramente sbagliata, perché con la storia non si può scherzare. La storia quella vera, la storia delle persone che sono morte e la persona è sotto. Peraltro terra, non ha scherzato, no. Non ha scherzato in questo caso, non è che ha fatto una vignetta, perché molte volte noi abbiamo assolto i comici e i vignettisti perché mettono, no? Perché mettono i simboli della Shoah e non diciamo niente perché c'è il diritto di satira. Ma ascolta bene, ha parlato di migliaia di Shoah, cioè, rendiamoci conto che Grillo è un povero guitto, diciamo una volta. Vabbè, ma quello è un altro discorso, è un altro discorso, però alla fine è lo stesso discorso nella misura in cui si permette valutazioni e accostamenti della storia che sono, vabbè, completamente non si deve, fuori luogo. Non si deve usare io la quindi storia. Sono d'accordo con Parenzo, questa volta tu hai sbagliato, Cruciani. Va bene Ezio, ma io accetto le sue critiche. Mario da Roma. Buonasera. Dimmi Mario. Buonasera a tutti e io volevo dire questo. Il mio intervento sarebbe stato più efficace ieri, ma vi ringrazio. Dai Mario, vai veloce, dai. Allora, i movimenti di lotta per la casa, per quelli che conosco io, che ne conosco tanti, agiscono occupando non le case, come ha detto il signore ieri sera da Roma, che rompono le case, che altri hanno comprato via, no, occupano esclusivamente degli spazi pubblici, cioè degli spazi di ministeri, enti locali, via, lasciati in totale abbandono. In totale abbandono, a parte che non è vero, ma comunque no, il problema è che non si occupa, Mario, non si occupa nessun locale. Il punto è questo: locali pubblici non vanno occupati perché sono degli altri. Io non vado a occupare un locale quando non è mio, perché di solito se ci vado io da solo vengono le forze dell'ordine, mi portano via, addirittura in qualche caso viene l'ambulanza se uno è matto, ha capito? Cioè nel mondo normale non è che uno occupa qualcosa che non è proprio, non esiste una cosa del genere, cioè non esiste in natura, anche se è un locale pubblico inutilizzato non è che io lo occupo pretendendo un diritto, è una follia una cosa del genere. Siccome sono locali pubblici inutilizzati, allora lo occupo, ma non è così. Le zanzare, yeah. Un abbraccio forte e guardate che ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. The best of Beppe Grillo oggi alla Camera. Sentiamo qualche perla, caro David, a parte Boldrini, dilettante allo sbaraglio, abolire Equitalia, cose che sappiamo, no? Il 25 maggio cambierà la storia. Senti su le case attive, ristrutturarle, sentiamo che cos'è questa roba. Io sono stato uno a avere per primo una casa, adesso ci sono le case attive. Allora, la provincia di Bolzano ristruttura le case con un'agenzia pubblica, le case con la gente dentro. Tenete presente che il 98% di case sono abitate. Non puoi fare i lavori e mandare via le persone dentro. Quindi fanno i lavori con le persone dentro che non si accorgono neanche. Fanno un capotto esterno, modificano i serramenti, poi mettono un cogeneratore da 40 kW in un condominio a olio di colza. Fanno queste cose qua. La casa acquista il 10% di valore sul mercato immobiliare ed ecco recuperato l'investimento in 7, 8, 9 anni. Tu hai capito qualcosa, Davide? Certo. Cioè? Si possono usare i gas intestinali quando vai di corpo per riscaldare le case. Ma no, a ma Genova non è da me l'ho fatto. È la ristrutturazione, sì. Sta parlando della ristrutturazione. Si può ristrutturare con i gas intestinali. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, In Germania lo fanno, da sempre. Allora, si può decidere con un click se andare in Afghanistan, dai, su, però Grillo, quando dice queste cose veramente mi fa cadere le braccia. Io posso anche difenderlo sulla vicenda degli ebrei, della Shoah, le strumentalizzazioni, le proteste, eccetera. Lo difendo, va bene, però si può decidere con un click se andare in Afghanistan o no. Mamma mia. E questo è un cambiamento epocale. Epocale, io voglio che i cittadini con un click decidano se andare in Afghanistan, decidano se il gioco d'azzardo deve essere legale o no, decidono dei problemi che riguardano i cittadini. Ah, il lavoro manuale scomparirà. Il lavoro fatto manuale scomparirà, va breve. Scomparirà perché è tassato il lavoro delle macchine in nero. Oggi abbiamo quasi 1 miliardo di oggetti che colloquiano tra loro, l'ho fatto vedere nello spettacolo. Colloquiano tra loro oggetti, telefonini, non saranno più necessari, gli occhiali, in viva voce puoi collegarti, essere sempre collegato in wifi, sempre. Ti svegliamo quando tu stai per dormire. Ma capito? Ma io non voglio essere collegato sempre in wifi. Sempre, in continuazione. Perché? Anche quando perché? Vai al cesso. Anche quando certo, vai al certo, è evidente, se deve filmare tutto. Mia moglie è andata via di casa, non so perché. La filmavo mentre andava in bagno. Ha avuto 2 milioni di click del Movimento 5 Stelle. Massimo da Roma, 800 24 00 24. Massimo. Ciao, buonasera. Dimmi. Niente, a me mi sembra assurdo che veramente ogni volta che uno dica una cosa venga strumentalizzata. La vera Shoah è Equitalia qua. No, guardi, allora, io posso anche criticare Grillo perché ha utilizzato la parola Shoah in qualche modo banalizzandola, dicendo che ci sono altre Shoah, eccetera. Va benissimo, uno può criticare. Non è certamente un'offesa alla Shoah e agli ebrei, secondo me, e alla popolazione ebraica chi è morto ad Auschwitz, come invece dice Parenzo. Dopodiché... No, infatti la penso esattamente come lei, non è assolutamente un'offesa nei confronti degli ebrei morti. Allora? Tutto qua. Tutto qua, questo qui era il mio pensiero al riguardo, perché vogliono passare, peraltro, quello che ha detto Grillo, e non è così. Va bene, Ernesto da Roma. Pronto, Cruciani, buonasera. Oh, Ernesto, come stai? Io bene, lei, e voi come state? Vi tutti bene? Sì, non c'è male. Che vuole dire a Parenzo stavolta? No, io più che apparenza volevo dire una cosa su Berlusconi, che praticamente oggi gli hanno ridato l'agibilità politica, sì. E lui sicuramente dopo il canto tu e sì. Le dentiere per gli anziani si inventerà un'altra cosa per stravincere. Io penso che punterà sul Viagra per tutti, l'amore senza età. Lei dice quindi, che dal centro anziani, dove sarà quattro ore una volta a settimana, il Viagra per tutti, ma non solo, dice se vinco le elezioni io mi adopererò anche a livello europeo perché gli ultra sessantenni ricevono delle confezioni vita natural durante gratuite per poter fare sempre l'amore e non avere problemi di erezioni. Va bene Ernesto, può darsi, difficile. Sì, questa la punterà su questa sicuramente, così non lo so. Stravolge tutte le risondaggi. Va bene, Matteo, Torino. Sì, buonasera Cruciani e Parenzo, piacere sentirvi. Sentite, io volevo intervenire sull'episodio del poliziotto alla manifestazione. Dimmi, dai. Volevo semplicemente dire che è pazzesco vivere in un paese dove quando succede e c'è della gente che fa guerriglia nelle strade, la prima cosa a cui pensare è se un poliziotto ha fatto un gesto, diciamo, indubbiamente preso anche dalla concitazione dell'evento. Volevo semplicemente dire questo. Dunque è pazzesco, insomma, che si parta da questo e non dal fatto che della gente ha devastato una città, l'ha messa sotto guardia. Ma insomma, certo, non è che si parte da quello, sono due fatti distinti, vanno perseguiti quelli che hanno fatto quella gazzarra immonda in piazza, aggredendo i poliziotti, sfasciando le vetrine. Ma non c'è nulla, ma non c'è nulla. Questa è una cosa. Ma il altra resto non c'è nulla. Che cosa? Vuoi credere a questa ragazza quando parla di violenze? Sono due cose diverse. Io vedo quelle foto. Io parlo. Ma vedi le foto di che cosa? Che il capo della polizia. Allora, ci sono state le telecamere che hanno documentato, foto di fotoreporter che erano lì a documentare gli scontri. Ma cosa? Ma non c'è nessuno scontro qui, c'è la polizia che ha fatto delle cariche, non c'è nessuno scontro, non sono parti uguali. Da una parte ci sono dei delinquenti e dall'altra c'è la polizia, chiaro, no? Sì, ma non è che la polizia può fare qualunque roba, qualunque cosa, è al di fuori della legge. Ma chi l'ha detto? I poliziotti hanno uno stemma dove c'è scritto sub lege libertas. Tu vorresti la sub lege libertas, hanno scritto i grandi poliziotti sulla loro divisa, sub lege libertas. Allora, sotto la legge c'è la libertà. Tu sei d'accordo sull'identificazione dei poliziotti sui caschi? No, io, questo assolutamente sì, col numero, non col nome. Che vergogna che sei, che vergogna, è come mettere il nome. Sei veramente una vergogna, assolutamente, guarda, sei veramente una assolutamente vergogna. E sono d'accordo con il capo della polizia che ha detto cose serissime a proposito. Il capo ma della che polizia, ha detto che è un cretino, secondo me ha anche sbagliato, peraltro. Posso dire che ha sbagliato il capo della polizia o no? A definirlo un cretino. Ci sono dei sindacati Giuseppe di polizia Cruciani, che oggi hanno contestato. Perché che non posso Giuseppe Cruciani? Perché? Critichi perché no? il capo della perché polizia. Perché non lo posso criticare? Non lo posso criticare? Sì, perché? Ma è una che cosa fai? Devi fare sempre il lecchino con tutti? Devi fare il lecchino con tutti? Ma chi è il capo della polizia? Ma mi interessa vabbè, nel merito delle ospite. Questioni. Aspetta. La zanzara stronza. Che gira. Oh, abbiamo con noi Carlo Giovanardi, senatore, sì. Nuovo centrodestra. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Pronto. Come andiamo? Sì, buonasera. Come andiamo, le chiedo, Giovanardi? Tutto bene? Grazie. Tutto bene? Senta, il capo della polizia ha sbagliato a definire cretino quella gente? Sì. Ha sbagliato, eh? Ecco. Secondo me sì. Perché ha sbagliato, sì, secondo lei? Perché un capo un giudizio lo può dare dopo aver fatto un'istruttoria, approfondito le cose, rispetto a una situazione nella quale io ho visto con allibito nelle ultime 24 ore una mistificazione totale della realtà, come avviene di solito in Italia. Sì. Attraverso la quale centinaia di dimostranti aggressivi, prepotenti, coi bastoni che si erano preparati alla guerriglia, sì, che stavano come al solito distruggendo una città e che sono stati contrastati con efficacia, con professionalità dalle forze, sì, dell'ordine, sono diventati in 24 ore tutte vittime, tutti agnelli, sì, tutti passavano lì per caso e come i vigliacchi nel momento in cui le cose si mettono male per loro incominciano a pegnuculare e nessuno c'era perché secondo l'opinione pubblica italiana, ho letto Repubblica oggi le interviste, sì, a questi signori che sono poi stati identificati fra quelli che picchiavano esattamente 5 minuti prima. No, beh, il ragazzo è stato identificato come quello che aveva partecipato agli scontri. Appunto, bendato fra le altre cose. Sì. Quindi oggi di che cosa tiene banco? Che i dimostranti con i caschi, gli scudi, i bastoni potrebbero in maniera ignota picchiare, fare violenze. Invece i poliziotti che li contrastano e per 1.200 euro al mese devono stare lì a contrastare, sì, queste persone scatenate, dovrebbero avere il numero per essere identificati e linciati preventivamente con nome, cognome, eccetera, scusi, magari la rete, dunque, dei social network. Dunque, secondo lei, mettere il numero sui caschi dei poliziotti significa sostanzialmente consegnarli ai violenti? Farli andare dentro un circuito in cui sicuramente è come mettere il nome. Certo, sarebbe oggetto di una situazione che è già molto pesante perché un conto è dire che sbaglia paga, sono perfettamente d'accordo. Un conto è trasformare, come è successo a Roma per l'ennesima volta, episodi di violenza organizzati, programmati, sì, e della violenza che abbiamo visto, come un qualcosa che non è successo perché oggi sui giornali italiani si parla soltanto ed esclusivamente di un episodio che, se permettete, sì, rispetto ma a secondo che lei che cos'era? Roma, che è cosa... marginale. È un episodio marginale, cioè il piede di quel poliziotto, dunque oggi il poliziotto ha detto sostanzialmente che gli sembrava uno zaino e stava guardando da un'altra parte per vedere se arrivavano le bombe carta. Lei ci crede? No, non lo so, io... Il problema è che, cioè, come lo definisce quel piede là, come lo definisce? Una io ho definito una, com'è che l'ho definito ieri, Parenzo? Una calpestatina. No, un danno collaterale. Sì, un danno collaterale. Sì, calpestatina. Ma marginale, certo, l'ha detto anche Giovanardi. Io non sono in grado di, io vorrei solo non sentirmi nei panni dei 14 poliziotti che sono finiti all'ospedale rischiando la vita, perché quando arrivano le bombe carta si può anche morire. Che hanno avuto lesioni, ho visto le foto per terra, massacrati di botte, loro, i poliziotti. Vorrei capire questi quattro poliziotti e le loro famiglie cosa possono pensare se dopo aver contrastato in quella maniera un attacco feroce e organizzato di violenti, oggi in tutti i giornali italiani la colpa di quello sono che c'è a Roma e della per polizia Giovanardi. Per un episodio singolo, perché questo hanno scritto i giornali italiani. Sono imbarazzato. Salvo, per lei, detto l'eccezione. Un attimo, Giovanardi, faccia parlare Parenzo un attimo. No, solo una cosa, telegrafico, 40 secondi. Sono imbarazzato per Giovanardi. Perché? Perché mi aspetterei, adesso dico anche di peggio, mi aspetterei da un deputato della Repubblica, senatore, che almeno... Sì. Senatore. Vabbè, uguale, sì. Dai. Abbiamo chiuso il Senato, chi se ne frega? Via, chiuso, finito. Ancora no, ancora deve essere votata questa roba. Aspetta un po'. Abbiamo chi sia, tu Renziano, vabbè. No, non sono Renziano. Vabbè, poi, dai. Sono imbarazzato per lui. Perché? Sono imbarazzato per Giovanardi. Perché secondo te dovrebbe... Senatore della Repubblica che telefona e praticamente dà del cretino al capo della polizia. No, non ha telefonato, l'abbiamo chiamato noi innanzitutto. Stai prima. Buono. Vabbè, che c'entra questo? Vabbè, si sostituisce al capo della polizia. Non ha dato del cretino, ha detto che ha sbagliato a dare del cretino al poliziotto. Beh, non sono d'accordo. E chi è Giovanardi rispetto al capo della polizia? Scusa. Ma perché non si può criticare il capo della polizia? Giovanardi, secondo Parenzo non si può criticare il capo della polizia. No, il signor Parenzo ha detto in 20 secondi due menzogne enormi. Mi avete chiamato voi prima. Vabbè, questo l'ho già detto io. D'accordo, questo certo, scusi. Secondo, questo scusa, io non ho fatto del cretino. Quindi vedi come si vede che Parenzo è della scuola di quei due bugiardelli di ieri che oggi hanno riempito i giornali delle loro bugie, che non erano lì. Se c'erano dormivano, passavano lì per caso, erano due pacifisti, non hanno mai fatto niente, ma non era lo stesso che 20 minuti prima bendato eri in mezzo al corteo dei violenti? Sì, non era quello che scappava? Ma lei piagnucola? La ragazza piagnucola? L'ha letto l'intervista? No, lei ha detto prima piagnucola la ragazza. No, ho detto che tutte le volte che conosce queste manifestazioni sa che tutti quelli che vengono presi, anche i più violenti, 30 secondi dopo che vengono presi incominciano a dire che loro non c'erano. Allora, quella ragazza ha detto che lui è garantista, lui è garantista a prescindere con gli amici suoi. Sto parlando del ragazzo e sto dicendo che Giovanardi è garantista con gli amici suoi. Ho letto oggi dichiarazioni di questo signore che era in mezzo ai violenti e che si comportava come se fosse lui un perseguitato. Lì ci sono persone che aggrediscono, loro aggrediscono persone in divisa che sono comandate a stare lì, che mettono a rischio la loro vita per 1200 euro, che se fosse per loro sarebbero voluti da un'altra parte. Lo fanno per difendere me, il signor Parenzi, il signor Cruciani, i negozianti, i passanti e la democrazia. Questa è la verità. Scusi, però non sembrano... Quindi vale tutto. Quindi vale tutto. Chi ha sbagliato, è giusto che gli venga fatto un processo disciplinare, un processo penale, se ha commesso dei reati, ma non linciato, ma non linciato. Allora, lui e tutta la polizia, tutti i carabinieri italiani. Allora, questa questo ragazza, non mi sta bene. Ma Giovanardi, questa ragazza che si chiama Deborah Angriziani, ha 20 anni, iscritta a Scienze della Pace, sorvoliamo, ha detto che è disumano quello che ha fatto la polizia, che c'è stato un uso diffuso della violenza da parte delle forze dell'ordine, che non vuole perdonare, non vuole perdonare il poliziotto. Scusi, Cruciani, io ho l'età per ricordare tutte le volte che pieghiamo quelli delle Brigate Rosse o quelli di lotta continua o i violenti della stagione del terrorismo italiano, le loro dichiarazioni erano sempre le stesse. Cioè uguali dopo a queste qua. Episodi, e cioè che loro non, che la polizia era violenta, che le polizie le aveva aggrediti, pure che la polizia era fatta di mascalzoni, che i carabinieri erano il volto cruento dello Stato, ma è evidente. Sì. Loro partono già dal presupposto che l'uomo in divisa è il loro nemico. E lo Stato. Scusate, ma quella a piede che lei ha visto sicuramente nel fotogramma, quel piede di quel poliziotto, come lo giudica? No, mi dica la verità però, perché per carità, poi bisogna ricostruire tutto, però lei come lo giudica? Lo considero una scelta, allora, uno dice... Un danno collaterale, si può dire un danno collaterale? No, allora dico, se il poliziotto mette un piede su un dimostrante per terra è una cosa sbagliata che può avere anche conseguenze disciplinari. Se leggo sui giornali che ha preso a calci persona, quello nessuno l'ha detto. Ma come stiamo scherzando? Ma andate a vedere sui siti, andate a vedere sui giornali. Vabbè, d'accordo, però c'è scritto semplicemente che i poliziotti pestavano. Allora, secondo questa ragazza, i poliziotti pestavano, non quello. Se questo poliziotto, come giustamente i poliziotti hanno detto, i carabinieri hanno detto, viene sottoposto a un esame vedendo quello che è successo prima, quello che è successo durante, quello che è successo, sentendo anche lui, è giusto che paghi. Ma oggi in Italia è stata messa sotto processo la polizia e i carabinieri, e sono stati trattati dai giornali come degli eroi i violenti che hanno messo a ferro e fuoco Roma. Questa è la cosa inaccettabile. E io faccio il senatore, e finché avrò voce, voglio esprimere anche il sentimento, se permettete, di milioni di italiani, scusate il termine, che hanno, ne hanno pieni i coglioni di questi personaggi, di questi violenti, che invece di usare i sistemi pacifici e democratici non fa un buon servizio per esprimere le loro idee, li esprimono coi bastoni, con i caschi, con gli scudi, con le bombe carta e con la violenza. Perché tu dici che non fa un buon servizio? Ma io non ne ho pieni i coglioni, invece, per usare il linguaggio del senatore Giovanardi, ne ho pieni i coglioni di chi, a prescindere, prima ancora che sia fatta luce su quel fatto, decide già di stare dall'altra parte. Ne ho pieni i coglioni, da cittadino italiano. Ma non c'entra niente questo, Parenzo. Parenzo, come al solito, mente per la gola. Perché ho detto che sto dalla parte della polizia e dei carabinieri. Mente per la gola. E che se c'è un poliziotto o un carabiniere che sbaglia, dopo che giustamente sia stato sottoposto a un procedimento in cui anche lui possa dire la sua versione, se ha sbagliato pagherà. Allora io uso sistemi e meccanismi democratici, invece Parenzo sta dalla parte dei delinquenti. Scusi, questa ragazza non mi sembrava. La questa ritiri, ragazza. Giovanardi, questa è grave, non sto dalla parte dei delinquenti. No, quello che dico la ritiri, dalla parte dei sei dalla parte, dei delinquenti, perché questi è qua sono, restano impuniti, capito? Restano impuniti, restano impuniti, tiravano i San Pietrini, vergogna! Non li ho mai difesi questi qui, vergogna, anzi. Ti attacchi a questo piccolo episodio, io ho il coraggio di dirlo, Giovanardi non lo vuole dire in fondo, ma forse lo pensa. Vergogna, è un piccolo episodio questo qua, ridicolo, un episodio ridicolo di questo qua che passa lo sopra. Lo Stato di diritto, un paese democratico, ma chi se ne frega, è una calpestatina, dai. Il polso di ferro, la mano dura nei confronti dei violenti. Poiché sono siano essi da una parte della barricata o dall'altra. Poiché io sono una persona responsabile, voi non avete mica idea, ma secondo me lo avete, di quello che sta montando all'interno della polizia, dei carabinieri, dei guardi di vita. Che sta succedendo? Un sentimento di frustrazione, di rabbia. Di ribellione addirittura nei confronti dei Parenzo della situazione. Cioè ribellione, ma che vuol dire? Cioè che di fronte, no, di fronte al fatto, voglio dire di sdegno, di quando ieri ha detto adesso d'ora in poi, ma venga il magistrato, venga il signor magistrato qui davanti a noi, il signor magistrato, a stabilire lui quando c'è la quando ci attaccano, quando ci tirano le bombe carta, quando finiamo all'ospedale, stia anche lui qui insieme a noi a dirci che cosa dobbiamo fare. Scusate, non ma vogliamo lo Stato, questa ragazza, non vogliamo i giudici, i magistrati li vogliamo qui con noi, insieme a noi, e che ci dicono cosa dobbiamo fare. Perché tanto questi qua alla fine non pagano mai, questi che tirano le bombe carta. Dai, diciamo la verità, su, questa è la realtà, Parenzo, che tu te ne rendi conto oppure pagano quando in mano. Ma secondo lei è meglio che sia scoppiato in mano? La bomba carta? Io fra l'aggressore e l'aggredito, sto sempre dalla parte dell'aggredito e non dell'aggressore. E dunque è meglio che sia scoppiato in mano piuttosto che in testa un poliziotto. Fra l'aggredito e l'aggressore, scusi, fra il rapinatore e il rapinato, da che parte sto io? No, appunto, e allora la conseguenza qual è? C'è una ragazza che è stata colpita quando era a terra, Giovanardi, non confonda. Ma non mi pare che è di una gravità inaudita. Non mi pare che sia molto male questa ragazza. Sta bene, come sta questa ragazza? Non mi pare che sia molto male questa ragazza. Non mi pare. Allora, io nel discorso di prima continuo a dire che vada a trovarla all'ospedale. Ma quale ospedale? Ma e chi è che va a trovare i 15 poliziotti, i carabinieri? Scusi, il problema è che quella ragazza lì è venuta volontariamente a Roma. Aspetta, fai sentire. Questa ragazza qua ha scelto lei di venire a Roma, di fare insieme a altri, o quel ragazzo ha scelto di mettersi il casco, di bendarsi, di andare a attaccare i carabinieri e i poliziotti. Dunque quindi se l'hai cercata, loro. Se l'hai i poliziotti e i carabinieri invece sono dovuti andare lì. No, però voglio dire, andare lì. Se uno le vuole dire, è molto grave, è molto grave. Mi fai parlare un attimo? No, perché è molto grave. Scusa, perché ci ha detto una cosa, dal mio punto di vista, gravissima. E qual è? Allora, qual io è? Chiedo a Giovanardi di andare a trovare i poliziotti all'ospedale e anche questa ragazza. Ma a casa, questa ragazza non sta all'ospedale, ma è a casa sua, che sta, perché sono due cittadini pari livello che hanno subito entrambi aggressioni. Allora, molto grave, quel che dice, molto grave. E i bastoni bendati aggredivano i carabinieri. I carabinieri e i poliziotti non sono affatto sullo stesso livello e non sono cittadini pari. Da una parte non aveva bastoni la ragazza, non aveva bastoni. Sono persone che difendono l'ordine e la sicurezza dei cittadini. Non aveva quindi bastoni. Se tu mi vuoi far dire che il rapinatore e il rapinato, che il carabiniere che corre per evitare la rapina e il rapinatore che è un cittadino anche lui, Sì, è un cittadino anche rapinatore. Non aveva bastoni la ragazza. Ma che non c'entra? Aveva bastoni. Era in mezzo alla manifestazione. È stata aggredita. Ma è quale stata aggredita? Ma smettila con questa buffonata che è stata aggredita. Dai, basta con queste fandonie. I poliziotti quando caricano non è che guardano in faccia la gente. Dai, è normale, no? Male. Le cariche. Male. Ma sei male. Ma adesso, male. Durante le cariche si va a dire no, quello là non ha fatto niente, quell'altro sì. Quando si carica, Giovanardi, non è così? Beh, io vederei in difficoltà nel momento in cui quelli picchiano e picchiano maledettamente forte il carabinieri. Cioè, scusi, mi fa vedere i documenti? Dai, perché sa, prima mi deve dare i documenti, mi deve dire chi è, perché qui quello lo mena, no? Dai, perché avete visto le un attimo scene solo, dei, un attimo solo. Dei carabinieri con 3 o 4 che li stanno menando. Ma cioè sì, i dimostranti stanno menando i carabinieri. Senatore, un attimo solo, poi ci deve dare ancora 3 minuti, pubblicità. È un cretino perché si è appestato, quella ragazza è un cretino. Però lei giustamente ha detto bisogna aspettare le inchieste per dare un giudizio su una persona, assolutamente. No? Scusi un attimo, ma lei non ha parlato comunque. Lei non ha cantato questa canzone qua? No. Happy, happy. Perché non ha ballato, Giovanardi? Perché sono stonato e perché non ero nel luogo dove si ballava, ero un pochino più in là. Beh, diciamo che potrebbe essere l'inno oppure no? Oppure è troppo cheap per essere l'inno del nuovo centrodestra? Oh, l'inno no, è un momento liberatorio di soddisfazione, di gioia, di gratificazione perché ha partecipato a un congresso che è andato bene. Però scusi, non ha trovato fuori luogo per esempio il fatto anche di cattivo gusto il fatto che Alfano abbia annunciato lui la cattura di Dell'Utri? In fin dei conti se la poteva risparmiare, no? Poteva tranquillamente farlo dire a qualcun altro. È il classico caso che se non l'avesse, lui non l'avesse annunciato l'avrebbero criticato dicendo che lui, essendo il ministro degli interni, avrebbe dovuto darne comunicazione. No, non credo. Io penso di sì invece. Ma che avrebbero fatto l'accusa esattamente speculare contraria. Vabbè. Ma lei che è stato sempre un garantista, eccetera, io penso che veramente abbia trovato fuori luogo questa cosa. Garantista? No, io ho trovato fuori luogo, ne stiamo proprio discutendo adesso al Senato. Cosa? Il meccanismo attraverso il quale ho letto anche gli articoli interessanti di questi giorni, io non ho ancora capito di che cosa è accusato Dell'Utri. Di concorso esterno in associazione mafiosa. Sì, questo l'ho capito, no, ma non ho capito qual è stato l'atto, il fatto. Cioè, secondo lei è stato perseguitato Dell'Utri, per esempio, dalla magistratura? Io quando ho letto le vicende di Mannino, di tanti altri che sono incappati in questo infernale meccanismo, per cui dice ha rapinato, ha ucciso, ha rubato, ha corrotto, dice no, e che cosa ha fatto? No, ma mi dica lei sulle questioni della giustizia è stato sempre molto chiaro. Anche no, per lei, anche per esterno, lei. Il concorso esterno, basta vedere adesso il dibattito fa Fiandacca, vuole solo Fiandacca. Sì, vabbè, però PM, no, ma per dire che ancora oggi stanno discutendo su quale sarebbe il reato per il quale si rischia di andare in galera anni. E su questo siamo d'accordo, cioè nel senso è un reato. Una cosa da poco, però per esempio c'è in galera cosa, come si chiama? Cuffaro è in galera per Cuffaro. Concorso esterno. Vabbè, ma comunque Cuffaro è in galera quando il procuratore generale un'ora prima della condanna ha detto non c'è nessun elemento, non c'è nessuna prova, non c'è nessun indizio che Totò Cuffaro abbia favorito la mafia, quindi chiedo di riportare tutto in appello. Ma per lei è innocente Cuffaro? Ma non per me, per il procuratore generale. No, ma per lei, Giovanardi, sì, per lei? Me sì. E la mia opinione è Dell'Utri? Quella autorevole del procuratore generale della Repubblica che in Cassazione ha detto lui non c'è nessun elemento, nessuna prova, nessun indizio convincente. Riportate tutto in appello. Vabbè, intanto è stato dopo è stato condannato. Però voglio dire, riassumiamo un attimo. Allora, per Giovanardi, riassumiamo in 30 secondi. Riassuntino in 30 secondi del Giovanardi pensiero. Primo, Dell'Utri è innocente. Cuffaro è in carcere per un reato che non esiste. La ragazza caduta per terra e malmenata dal poliziotto, in realtà non è malmenata. Chi l'ha detto che è stata malmenata? In realtà era una terribile terrorista che doveva stare in galera e non doveva andare a quella cosa. Questo è il Giovanardi. Di pensiero. Aggiungere. Invece Rina in carcere ci deve stare tutta la vita, invece i mafiosi devono stare in carcere, invece i terroristi, le brigate rosse o nere che hanno fatto le stragi devono stare in carcere, i delinquenti devono stare in carcere. Quindi io quando una persona ha commesso dei reati, so quali reati ho commesso e sono sicuro che sia colpevole, è giusto che sia in carcere. Senta, io non ho capito una cosa però, secondo lei... Non ho capito cosa serve tenere in carcere Totò Cuffaro, con tutto si sta comportando splendidamente. Vabbè, quelle sono le procedure di legge. Sa, reato però. Ci sono delle leggi che... No, avrei già potuto essere ai servizi sociali e tutti avevano dato giudizio favorevole ai giudici di sorveglianza, eccetera, eccetera, meno che Palermo che dice che deve stare in carcere finché non parla. Ma Dell'Utri secondo lei è innocente dunque? No, io non ho detto che no, io ho detto che non perseguitato, è perseguitato, sì o no, secondo lei? Non ho ancora capito qual è il reato, cioè il reato, ma questo l'abbiamo capito, ma non è lei capito, ma non è mica la cosa. Ma lei ha sempre detto che è perseguitato, dell'ultimo adesso perché è passato con Alfano non lo dice. Giovanardi. Ma scusi, ma lo sa, sto dicendo esattamente, ho parlato di Mannino. No, d'accordo, però io la domanda è molto semplice, dell'ultimo è perseguitato, sì o no? Ma certamente sì, perché è un meccanismo infernale questo di queste accuse, sì, che sono talmente impalpabili, sì, per sì, cui non si capisce come, quando uno incappa in una vicenda giudiziaria di questo tipo, che tutto dura sì, decenni, chi è stato che l'ha rimandato in appello? Anche qui il procuratore generale della Cassazione, che ha smontato la prima. Senta, Giovanardi, le posso chiedere una cosa? Ma vogliamo fare gli auguri a quella coppia di Grosseto che oggi è stata quella coppia gay? Il comune ha iscritto il matrimonio nei propri registri dopo la sentenza che c'è stata, anche se c'è un ricorso. Faccia gli auguri a questa coppia. No, faccio gli auguri nel senso di due persone che vivono assieme, mi fa piacere. L'amministrazione è l'ennesimo episodio di arroganza, di prevaricazione. I magistrati che fanno prevalere la loro idea personale. Ma il giudice è impazzito? Il giudice è impazzito? Vigori non sono colpo. Ma il giudice è impazzito? No, ormai i giudici in Italia non è che siano impazziti. Ritengono di essere superiori alla Costituzione, alle leggi e ai regolamenti. Ma questa iscrizione ormai è illegale, secondo lei, l'iscrizione nel registro? Ma assolutamente sì, totalmente illegale. Totalmente, cioè il comune di Grosseto, pur ottemperando una sentenza della magistratura, sta commettendo un illecito, secondo lei? Il comune, quando nei ricorsi, sì, assolutamente certo che appello, Cassazione cancelleranno, dovrà cancellare questa cosa. Poi se invece il Parlamento, come ho detto tantissime volte, dovesse in Italia deliberare e cambiare la Costituzione, e noi ammettiamo l'utero in affitto, l'eterologo, quelle belle robe che leggiamo sui giornali oggi, no? I bambini scambiati, tutte quelle robe. Vabbè, adesso allora io lo accetto. Bambini scambiati è una cosa, dai, anche lì è un effetto collaterale. Guardi che un giudice è esattamente 20 giornate, quelli che sono comprati i bambini in India da questa povera sciagurata che ha venduto il suo corpo. Sì. Non sarebbe un illecito, secondo quel magista. Si può andare in giro a comprare i bambini. Giovanardi, un'ultima cosa. Cosa vuole dire a questa ragazza che dice che i poliziotti sono stati violenti, eccetera? Non mi pare particolarmente colpita dal calcio del poliziotto, questa ragazza, la signora Deborah Angrisani. Tra l'altra cosa, è figlio di un finanziere, quindi anche suo padre dovrebbe essere un militare, da quello che ho letto. E dunque? Deve essere anche un conflitto generazionale, se è così. Vabbè, cosa devo dire? Scusi? E che cosa vuole dire a questa ragazza? Che mente, secondo lei, mente. Ha un atteggiamento di odio nei confronti delle in generale della polizia, della polizia, dei carabinieri, le leggerei Pasolini, quello che diceva Pasolini sulla polizia e carabinieri. No, a presto Giovanardi, a presto. E bene, grazie. Ciao. La Zanzara. Sono tempi duri, non tanto per noi, ce ne frega niente, zero. Massimo da Roma, buonasera Massimo. Buonasera Gianni. Dimmi. Senti, allora, quello che avete detto sulla ragazza è indegno. Quello che abbiamo detto sulla ragazza è indegno, sì. Sì, per esatto. Per fortuna c'è la libertà di espressione ancora vigente in Italia, si può parlare. Anche come la ragazza viene intervistata. La ragazza viene intervistata da Repubblica, in cui dice che la polizia è violenta, eccetera, eccetera, e noi diamo giudizi. Le dispiace? Benissimo. Tu. Allora, voi avete detto, tra lei e Giovanardi, avete detto che quella è una... Che è una? Calpestatina. Sì, io l'ho detto anche ieri, certo. Da quello che mi sembra, l'ho visto che è una calpestatina, mi sembra chiaro che è una calpestatina, non mi sembra nulla di particolarmente, come dire, no, non è una tortura. È passata addosso. Sì, ma non è nulla di... Non è una tortura, no. Mi sembra una cosa... Inoltre, Giovanardi, che dice che il capo della polizia dovrebbe fare un'istruttoria, prima di dire che è un poliziotto cretino. Sì. Non ha bisogno di nessuna istruttoria per dire che quella ragazza parla come i brigatisti. Sì. Inoltre, nessuno ha visto quella ragazza commettere un atto violento. Mm-hmm. E inoltre, tutto quello che voi dite per giustificare un reato, perché quello di quel poliziotto è un reato, giustifica quei ragazzi. Adesso lei è già sicuro che è un reato? Lesioni, sì, lesioni. Certo. Allora io le dico. Guardi, in questo paese è molto è probabile che questo poliziotto paghi con la condanna piuttosto che uno che tira una molotov contro la polizia. In questo paese può succedere anche questo, le do ragione. In questo paese dovrebbero essere condannati entrambi. Sì. Sì. Okay? Bravo, esatto. E non si scelgono le leggi da rispettare, le leggi si rispettano tutte, sì. Altrimenti se lei dice che la calpestatina non è reato, quelli che tirano le bombe dicono che la bomba non è reato. Sì, e perché scusi, che a lei. Il monopolio della forza in Italia ce l'ha la polizia e lo Stato, non è che ce l'hanno i. Sì, ma non vuol dire fare quello che ti pare. Sì, nel rispetto della legge, non c'è dubbio. Non l'ha rispettata. Vediamo se non l'ha rispettata. Come vediamo. Non lui dice che gli sembrava uno zaino e guardava in alto. Al contrario. Sì. Anche quella è vietata e lei lo sa che è stato fatto. Ma va benissimo. Benissimo, se lei giustifica. Io non sto giustificando questo, non sto giustificando questo. Che non è una cosa grave. Qualcuno può dire che tirare una bomba carta non è una cosa grave. Vabbè. E siccome i reati sono tutti tali e non solo quelli che lei pensa che siano tali. Sì. O si rispetta la legge sempre, sì. O non si rispetta mai. Sì, vabbè, perché io rispetto, guardi, quelle che dico io, quando, lei rispetta quello che dice lei. Senta, Massimo, quando c'è una situazione di tensione, cariche della polizia, manganellate, gente incappucciata, è evidente che si commettono delle infrazioni e dei reati, no, di continuo. Non è evidente. È chiaro che non è evidente. Non è un pranzo di gala, non è una cena in costume. È evidente che se un poliziotto sta lì, magari assesta qualche manganellata di troppo. Cosa. Non ho detto questo, ho detto è evidente. Infatti ci sono le inchieste anche interne apposta per verificare uno... eventuali abusi. Mamma sub mia, legge guarda. Libertà. Ma vai a comandare la piazza libertà. Tu, valla a comandare sub tu. Valla a comandare no, tu no. La piazza ma che non sei capace, tu valla con a comandare le tue tu. Assoluzioni radiofoniche sì, a vabbè. Prescindere mamma mia, perché che tu vergogna, devi comunque guarda. Stare dalla che parte vergogna. Di questi qui comunque. No, io sono contro i delinquenti e violenti. Detto che e allora devi essere dalla e allora no, sono contro i delinquenti e violenti. Apre un'inchiesta per verificare. Benissimo, la devi essere felice perché tu sei un cittadino di questo paese. Mamma e anche mia. Se non vai che a cosa manifestare scontata, perché non che cosa te ne frega scontate, un cazzo di che tu cosa per scontate. Partito preso sì. Perché ti piace fare la polemica sì, hai deciso ma chi che te l'ha detta questa cosa? Io ci credo a quello che dico, imbecille. E il poliziotto aveva ragione. Io ci credo a quello allora che dico, imbecille, capito o no? Se ci credi è pericoloso. Se ci ma credi è grave ancora, hai doppio. Ma sarai tu. Se almeno fosse un gioco radiofonico sarebbe giustificato. No, sei tu malato di testa, sei tu. Se ci credi davvero è molto grave. Allora dai l'imbecille pure a Maurizio Belpietro, è libero. Dai dell'imbecille pure a Maurizio Belpietro, è libero. Che oggi hanno scritto ma la stessa so cosa che io ho detto ieri sera. Dai dell'imbecille pure hanno, a loro, se hai coraggio. Se hanno scritto dai, questo, forza. Hanno scritto una stupidaggine. Forse certo. Il capo della polizia dà del cretino alla gente che tiene a terra una ragazza con il piede, ma una sequenza fotografica dimostra chi sono i veri violenti. Tra di loro c'è anche il compagno della giovane, che la sinistra incensa come un eroe. Cretini ma senza divisa e il mondo alla rovescia. No, io non ho detto che questo. Dai dei cretini pure a loro, degli imbecilli pure a loro, se hai coraggio. Lo dico che hanno scritto una sciocchezza, è un editoriale, quindi è un commento e quindi come qualunque commento va bene perché vergognati, è una presa di posizione, vergognati. No? È un editorialista, quindi è un direttore, quindi ha fatto un editoriale. Io lo dico perché ci credo, hai capito? Credo lo dico perché ci credo. Peggio ancora. Sarà peggio, Massimo, peggio. Prego, Massimo. Ancora peggio. Massimo. Volevo dirle che quello che ha scritto Belpietro è evidente che è falso perché non l'ha tenuta a terra la calpestata. Mi sembra un po' diverso dal mio punto di vista, per lei sarà la stessa cosa. No, io ho parlato ieri, già da ieri ho parlato di calpestatina. Non no, ho detto. Lei ha scritto bene Belpietro. Belpietro, no, Belpietro ha parlato Belpietro, di una persona che la teneva per terra. La teneva per e terra. Ha scritto una cosa che poi abbiamo visto non lo essere so. Falsa. Lei parte già dall'idea che questa ragazza non abbia fatto nulla durante la manifestazione. Io parto dall'idea che finché non si dimostra che ha fatto qualcosa non ha fatto nulla. Ah no, non ha fatto nulla. Dunque, se tu stai in mezzo ai violenti, urli, grida, eccetera, non puoi prendere una manganellata. Non la puoi prendere. Uno deve distinguere tra quelli che hanno tirato i sassi, quelli che hanno tirato le molotov e quelli che stanno lì in mezzo ai violenti. Uno ha il tempo di distinguere quando c'è la carica. C'è la non carica, prendi io. Le manganellate. Scusi, hai capito o no? Se uno io. Va. Massimo, scusa. Un attimo, se uno va là in mezzo sapendo che sicuramente ci sono incappucciati, black blue, black block, punk a bestia, delinquenti, gente che vuole tirare i sassi, poi non ti puoi stupire, oddio ho preso una manganellata da un poliziotto, non ti puoi stupire Massimo, ma di cosa parliamo? Perché lei si stupisce? Mi spieghi? Della manganellata. A lei risulta che qualcuno si è lamentato delle manganellate? Beh sì, come no, sì, assolutamente a sì. A me questa risulta che ci sia stato qualcuno che si è lamentato del fatto sì. Che è stata di un'eccessiva violenza, terra. No, di un'eccessiva violenza della polizia, che la polizia ha distribuito manganellate a destra e a manca con una violenza pazzesca. Legga l'intervista di oggi a Repubblica di questa tizia. Vuole dire anche quello che dicono gli altri, lo può farle lasciar dire a me? Sì, no, ma allora io dico che mi lamento del fatto sì. Che un poliziotto si permetta di passare addosso a una persona a terra. Questa è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Io ho detto, parlando. Io lo chiamo calpestatina perché non mi pare sia successo nulla di grave. Che hai provocato detto, e basta. Ma lei lo sa che cosa è successo? Vabbè, ma mi pare evidente, ma non mi pare che ci siano state delle conseguenze. Questa parla da Viale Monterosa. Ma questa parla ai giornali, non mi pare ricoverata. Ma meno male che parla ai giornali, no? Vabbè, d'accordo, vabbè. Allora, senti, tenete questa ragazza che è iscritta. Tenete questa ragazza che è iscritta alla facoltà della pace, va. Tenete questa ragazza. Cosa vuol dire dove è? Tenete questa ragazza, tenetevi violenti, tenetevi quelli che sparano. Tenetevi quelli che dicono che la polizia è una vergogna. Tenetevi quelli che sparano a zero contro la polizia. Tenetevi quelli che sparano di tutto, Molotov, eccetera, contro la polizia, perché dopo diventano agnellini. Ha ragione Giovanardi in questo, subito dopo diventano agnellini, prima partecipano agli scontri, poi diventano agnellini. Non abbiamo fatto niente noi, traffico. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. A Cruciani ha decaduto. No, ancora non sono decaduto. E in ogni caso io ribadisco il concetto di prima, caro Parenzo, che non è assolutamente una posizione, una polemica così radiofonica. Io ci credo per davvero a questa cosa qua, ci credo per davvero. Quel poliziotto purtroppo pagherà, questo è il problema, che pagherà solo quel poliziotto, non quei delinquenti. Mi fa impazzire a me questa cosa. Aspetta, fammi sentire un attimo. Pronto? Annarella? Un attimo. Sì. Che c'è? Che stai a fa? Abbasserà la televisione. Chi è? Sono Giuseppe, come stai? Come una beccamurria. Perché? Che è successo? Alza un po' la voce, no, che non sento niente, Annarella. Annarella, ma che, no, che vuoi da me? Che Berlusconi mi hanno messo, non mandano ai corsi domiciliari. Hai visto dove lo mandano? Hai visto dove lo mandano Berlusconi? I servizi sociali dagli anziani. A quello sa che fa? Se compra qualcuno e se mette a sede per 4 ore. Cioè? Ma che fa quello? Quello se mette a sede 4 ore e tutta lì a penitenza che deve fare. Vabbè, vai in un centro anziani, Annarella, ma tu ti faresti assistere da Berlusconi o no? Eh? Tu ti faresti assistere da Berlusconi in un centro anziani? Io? Ma manco morta. Perché, scusa? Per carità. Perché? Dai. Oh, no, sai che gli ho detto l'altra. Ho beccato. Ma quando l'hai beccata, Annare? Sarà 20 giorni fa. Dove l'hai beccato? Là fuori a via Giolitti, in Dota Giolitti. Ah, perché che stava a fare Berlusconi? Andava su. Allora? Allora ho visto un sacco di polizia, poi tutti i fotografi. E chi arriva oggi? Perché ci vado tutti i giorni. Sì, sì, allora? Di Berlusconi, e non ne seguo. Allora? È arrivato il taladro, a Sozzone. Tu gli hai detto? E lui è andato dentro. E vabbè. E te mo deve riuscire. Allora? Poi sono stati quelli di scorta, no, che mi conoscono. Sì, allora? Allora gli è stato disgraziati. A voi vi paghiamo noi. Siamo noi che paghiamo a voi. E allora? Allora dopo quando è uscito, allora hanno mandato tutti indietro, no? I fotografi, hai visto come fanno? Sì, solo sì. Io ci stavo là sopra, vicino alla porta. Vabbè, ma che gli hai detto alla comandante. Fine? Che gli hai detto? Ah, io ho detto, a Zozzo, sai che te ce l'ho la raschietta di muratori per levare tutto il cerone che c'ha in faccia. Ma lui non t'ha ascoltato, manco t'ha visto. Ma coglioni, stavo a capitare e spiega che io stavo vicino alla da sua, c'è stato aprire lo sportello. E che ha detto poi? Poi ho detto, invece di andare con la macchina blu, dovresti andare sul furgone nero dove stanno lì i poliziotti e così ti portano giusto alla sua Alberano. Alberano, i poliziotti Alberano, i poliziotti no. Perché deve andare sottoterra, quello deve andare sottoterra e caga la porta dei fuori, deve morire con l'insolazione. Ma dai, no, su, ma non si augura con la capoccia di fuori, Annarella, stai esagerando. Io sono convinto che se Berlusconi venisse a fare assistenza in un centro anziani dove magari ci sei anche tu. Ma c'è che andiamo, molto di dava parolaccia. Cioè, perché? Perché? Scusa, non ho capito. Ma che deve fare? Ma c'è che dia che andare a strappanculo? Che ma ancora a te giorno dalla pensione? Dia che andare a morire ammazzato? 194 euro. Ho lavorato dal 36 al 75. Ha capito sto stronzo? Ma che c'è da tra Berlusconi? Da Bettino Craxi che hanno rovinato l'Italia, ma con tempo di guerra stavamo così. Ma pure i comunisti hanno rovinato l'Italia, dai, mica sono... Che cazzo hanno rovinato i comunisti? Ancora hanno fatto i fascisti. Vabbè, dai, Annare, adesso stai esagerando, su. Insomma, dimmi che vuoi. Berlusconi, volevo capire, se uno va ai servizi sociali, in un centro anziani, mettiamo che tu sei là dentro, che faresti? Sarebbe un calcio là mezzo. Un calcio e mezzo ai coglioni? No. Ma veramente? Cioè, quello deve passare quattro... Quello deve passare... Sì, ce li ha, quello ce li ha. Ma ce l'ha ancora. Ma io penso di sì che ce li hai i coglioni. Giovanelli ce l'ha. Beh, io penso di sì che ce li ha. Cioè, adesso, 70... Erano due pezzi di pelle. Ma che due pezzi di pelle? Annare, no. Dai, su! Disgraziati. Che stai a mangiare? Che hai mangiato stasera? Con me, ma come... Ah, ho fatto gli straccetti con i funghi trifolati. I straccetti con i funghi trifolati? No. Ma quando andiamo da lei, Annarella? Non ci andiamo mai, mamma mia. Ma voi siete state sempre lì su, state con Berlusconi, tenete voi stretto. No, che c'è, tra Berlusconi ormai... so che sta in programma, vero? Chi? Faccio... Da amico, che sta in programma. Sì, farò un programma, sì. E vabbè, tutto, allora, Sandra, ma come quando fai? Quando comincia? Ma... Non mi ricordo. Ma su Sky TG24 ce l'hai tu? Ce l'hai tu, Sky TG24, ce l'hai Sky? Ma ce l'hai o no Sky? Regalagli l'abbonamento, scusa. Ma chi te lo... Ma no, e allora non lo puoi ma vedere. Ma pagalo tu, regalaglielo. Ma glielo regalerò, glielo regalerò. Senti, Annare... Io lo pago da io. Senti un po', Annare... Mi raccomando, fatelo regalare, poi chiamami se non te l'ha regalato, perché ah, ha preso... Ti ha preso... Vai, amore. Quando vai a Roma? Ma lui è a Roma, è sempre a Roma. Sto a Strasburgo, cara. Ora. No, è sempre a Strasburgo. Sto a Strasburgo, al Parlamento Europeo adesso. Adesso? Basta, così lontano sei nato. Andiamo. Oh, ti sta Biancofiore. Ma ancora con la Biancofiore? Due volte, no, due volte. Non è qui. Ma quando hai visto? È passata dalla parte della piazza del Parlamento, no? Sì, sì. Allora sta a Biancofiore. Ancora te lo lecchi Berlusconi? Ancora te lo lecchi? Te lo lecchi Berlusconi. E lei? Non mi risponde, la vista dentro. Senti una cosa, ma Grillo, Grillo che ha detto... I mortacci su questo figlio di la mignotta. Che quello è matto. Perché che ha fatto? È matto, perché non ho pure figli? Vabbè, ma che ha fatto? Hai visto sta cosa degli ma ebrei? Ma quello che ha messo Berlusconi, quel deficiente, là, quel bambino morto che sta venendo quattro, ma non ha visto che sta là nel ripieno che è? Ma chi? Toti si chiama, Toti. Vabbè, non ti piace, manco Toti ti piace. Ma che nome pure quello? Vabbè, è un uomo, certo che è un uomo, che è una donna. Ma che c'è? Ma non hai visto come parla tutto, mi pare un sciroccato. Ma lo sciroccato, dai, su, Annare. Ma che voti tu, che voti alle europee, che voti? A che voto? PD. A chi? PD di Renzi voti, eh. Ah, sì. Sì, per forza. Non Tsipras. No. Loro lo sanno. Vabbè, Annare, ti saluto. Io sono laziale e da sinistra. Lo so, ce ne sono pochi. Io sono laziale e del resto non me ne può fregare di meno. Ciao, ciao cara, ciao, a presto. Ciao amore mio, ci vediamo. Ciao tesoro, ciao. È piccoletto che passa. È piccoletto, non va passa, bene, tanto c'hai i fatti suoi. C'ha le cose sue, è piccoletto. Oh, dove siamo? Cristiano Lucca. Sì, ciao Cruciani, ciao Lorenzo. Sì, andiamo. Ti ho preoccupato per trovare lavoro alla Debora, perché com'è la facoltà? Dai, Scienze della Pace, amico mio, questa è iscritta a Scienze della Pace. Ma scusami tanto. Senti che dice. Ma qui in regione sì. Abbiamo l'assessorato alla pace e al perdono. Lo so che c'è l'assessore della pace al perdono in Toscana. Allora la signora Deborah Angrisani, 20 anni, dice a Repubblica, quella che è stata pestata dal poliziotto, calpestata, quella che io chiamo la calpestatina, studio Scienze per la Pace, è una laurea triennale, pure, cioè, lo dice pure, capito? Scienze della pace. Ma adesso la stai prendendo in giro? Certo che la sto prendendo in giro, ci mancherebbe altro. È vietato? No, ma è di cattivo gusto, visto che questa è di cattivo gusto prendere in giro. Adesso la zanzara è di cattivo gusto prendere in giro le persone. No, ma sì. Ho scoperto questa cosa. Non in generale. Non è stata menata. Stai prendendo in giro. A me mi sembra perché, in ottima forma. Cioè, l'operazione bassa che stai facendo attorno bassa, a questa io ragazza, è quello che penso. Che operazione bassa? Io vedo un'intervista a Repubblica. Le mani nella fogna che stai mettendo. Non sai nessuno. Consiste nel fatto di prendere questa ragazza, che è stata protagonista dell'episodio che ben sappiamo. Sì. Non solo è stata calpestata, tu la ironizzi da ieri su calpestata. Senti, se uno... cioè, io fossi in lei, io fossi, ma se ti vedessi pestata, ma ti andrei a fare il culo e ti sputerei in faccia, perché l'hai presa in giro, hai detto che non è successo nulla, la prendi in giro anche per il corso di laurea, che sicuramente fa sorridere, ma voglio dire, meno male, ha scelto di fare questa roba. Vabbè, sentiamo Cristiano da Lucca, che è più interessante. Cristiano da Lucca. No, io era una segnalazione che magari poteva far comodo, poi niente c'entra con la vicenda di ieri, ed anch'io curioso, sono curioso di sapere cos'è questa facoltà, perché non l'ho mai sentita. Ma sarà una delle tante cose... Va bene, grazie. Ciao. Oh, amore mio, fate bene. Salutami a Biancofiore. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Perché? che affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Io sono uscito su tutti i giornali tedeschi e francesi, specialmente i tedeschi, come leader del Movimento 5 Stelle. Però tradotto, leader, tradotto Führer. E ho parlato, Führer del Movimento 5 Stelle. Ho parlato con degli miei amici che erano, sono lì da 10 anni a Berlino, mi hanno detto, ma cosa stai combinando, cazzo, Führer del Movimento 5 Stelle? Grillo non è un fanatico antisemita, è un demente divertente, molto divertente, con una retorica squisita, è un intrattenitore nazionale. Grillo è un accadimento di sorprendente vitalità e di sorprendente stupidità della vita italiana. Abbiamo deciso che ci piace lo sberleffo, il vaffanculo e tutte quelle cose di cui Grillo è alto portatore, lui e il suo amico Casaleggio. E abbiamo deciso di dargli un sacco di voti per cercare di svuotare dall'interno il meccanismo di funzionamento della democrazia italiana. E Grillo di quei voti non sa assolutamente cosa fare, non è uno stratega, è un uomo molto ignorante, usa la Shoah per fare campagna elettorale, sì. È un poveretto sostanzialmente. Immagino che sei d'accordo con Ferrara su questo, no? Beh, sono in ottima compagnia, mi pare. Sono in buona compagnia. Io questa volta, devo dire la verità, questa volta sono in disaccordo con Giuliano Ferrara. Vabbè, questo d'accordo. No, sulla questione dell'utilizzazione della Shoah. Ma ha utilizzato... Sì, l'ha detto chiaramente che cos'è questo qui, dai. Comunque, se stiamo parlando di questa ragazza, sì, calpestata dal, sì, poliziotto in borghese, sì, lo dobbiamo anche a una libera stampa e a una signora, una fotoreporter, sì, che allora? Si chiama Yara Nardi. E allora? Yara Nardi, che pazienza. Bisogna ringraziare. Ma non bisogna ringraziare ringraziamo nessuno. Yara Nardi, che era là e con sprezzo del pericolo non è scappata. Sì, Yara, infatti, Nardi ha scattato e documentato questo perché, quello questo che perché siamo avvenendo in uno stato di polizia. Yara dove... Nardi, vabbè, ho capito. Nessuno ha mai detto che siamo in uno stato Riccardo di polizia. Riccardo da Roma. Nessuno ha mai detto una sciocchezza simile? Riccardo da Roma. Secondo poi, quanto alla facoltà di scienza per la pace, mi sono, sì, un attimo informato, ecco, in questi bene, 50 bravo secondi, sì, e sono andato sul sito dell'Università di Pisa. Sì, benissimo. Fondata scienza nel 1343. Per la pace. Mi fai parlare con Riccardo fa da Roma? Fa parte del corso di laurea magistrale e, sì, forse ha anche una sua utilità, visto che prepara persone. Sì, sì, sì. No, no, ma non si può buttare tutto nella fogna proprio, sempre. Sì. Ha una sua utilità, sì, visto che deve formare delle persone che andranno a lavorare anche nelle organizzazioni non, sì, governative, certo, nelle organizzazioni internazionali. Bene, Riccardo, quindi, da Roma. Non è una stupidaggine come la stai Riccardo dipingendo. Da Roma. Mamma mia, pagliaccio radical chic, mamma mia, due palle così, ecco, oh. Cioè, prima, ecco, quella vecchia stronza. Mamma mia, ma Cruciani, ma perché la chiami? Vabbè, ma perché la chiami? Perché mi diverte. Per farmi esplodere il fegato quando torno a casa? Perché mi diverte, Ricca, dai. Per farmi esplodere il fegato, quella vecchia babbiona. Ma che ha detto prima? Che è nata in pensione nel 75? Sì, cioè, siamo nel 2014, sono 40 anni che sta in pensione. Sì, quanti prende anni poco, c'hai? Prende poco. Quanti anni c'ha? Quella che ha detto una volta che c'aveva 68 anni, 69 no, anni. No, sono 40 no anni che sta in pensione. Ma chi li fotte i soldi agli italiani? Te o Berlusconi? Babbiona, babbiona. E mo quel pagliaccio che c'hai a fianco, quel radical chic, così, idiota, avvocato delle cause perse, oltre a difendere i vandali che distruggono la nostra città meravigliosa, difendimi pure la babbiona, mo. Difendimi pure la babbiona. Giovanotto maleducato, giovanotto maleducato. Lascia perdere la... Ma come ti permetti di insultare una signora anziana, giovanotto maleducato? Tuoi, ti prendono, manco maleducato più dei programmi dei Rossi, sei fallito. Sei un maleducato, sei. Ma leccare il culo al PD, vedi, non ti ma sei un maleducato. Io non leggo il culo a nessuno. Sei un maleducato perché hai insultato una persona anziana. Zitto, Parenzo, fai parlare un attimo. Fai parlare Riccardo. Se ti piace questa fogna che insulta una persona anziana, chi? Peraltro, e ti diverte, sì, che nella tua trasmissione siano insultate, scusa, le persone anziane, ma tu sei una fogna che ha insultato tutti, una persona anziana. Tutte le sere,

Scusa, ma tu che vuoi dire a questa studentessa 22enne Deborah, che dice la paura e il dolore mentre era a terra travolta dalla carica, mi ha colpita, non lo perdono, il poliziotto, erano tanti i poliziotti che pestavano, cioè io l'ho definita la calpestatina. Ma tu magari capitasse a voi, guarda. Ma dimmi Riccardo, come la definisci questa qua? Ma capitasse a voi magari. Questa guarda, ragazza. Io ho fatto il militare, sì, e ti posso garantire che qualche calpestatina l'ho ricevuta, fidati. A sì, differenza di te che sarai... un no, culattone raccomandato che avrà fatto o il servizio civile, no, o io ho fatto il militare. Ho fatto il militare, no? 12 mesi, sì, non è un vanto, avrei preferito molto non farlo, avrei sì, preferito non farlo. Ma ti posso garantire che non è che l'augurio capitasse a voi, non lo devi dire a me. Capitasse okay, a voi. Ok. In secondo luogo vorrei vedere come sono svolti i fatti, perché a me non mi sembra che questa è stata, che questa ci ha avuto 18 costole rotte. Questa stava in mezzo a gente che menava, stava in mezzo a gente che menava, che tirava bombe carta, quell'altro gli è zompato la mano, stavano tutti con i manganelli, con i caschi, con le spranghe, con tutte queste cose. Allora se tu te metti in mezzo alla gente che mena, qualche pizza la prendi pure te, no? Beh, Parenzo, questo non fa una grinza, questo ragionamento, o no? O sbaglio? Abbiamo già parlato, una stupidaggine assoluta. È una stupidaggine assoluta. È una stupidaggine. Però voi, poverini, continuate a pensarla così, avrete ragione voi, guarda, sì, avete ragione voi, guarda, mi sono veramente stancato, avete ragione vabbè, voi. Vabbè, ciao Rica, ciao Rica. Buonasera, ciao. Buonasera. Sono tempi duri, eh. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Why don't you go? Francesco, provincia di Varese. Aspetta, sì, buonasera Cruciani. Io ho visto. Un attimo. Pronto. Sì, cercavo Andrea Coltelli. Sì, sono io. Salve Radio 24, buonasera. Posso farti un paio di domande? Scusa, non sento nulla. Sì, scusami Andrea. Scusami, sono Radio 24, posso farti due domande? Radio 24? Sì. Fammi essere due domande. Sì. Allora, la cosa è questa, il poliziotto oggi dice, il poliziotto che ricordi quello che è accaduto, no? Dice di essere passato sopra e gli sembrava uno zaino e stava guardando da un'altra parte, che ne dici? Ah, io dico che basta vedere il video di servizio pubblico. Sì. Il quale lo stesso poliziotto pochi secondi prima mi manganella ripetutamente. Ti manganella ripetutamente? Sì. Lo stesso poliziotto che passa sopra con il piede? Sì, con lo stesso giubbotto di quello si vede un po'. Ma ti manganella perché? Ti manganella perché sta facendo una carica? Non lo so perché. No, ma nel senso... No, d'accordo, però... Io ero a terra... Sì. Sdraiato sulla Debra e non stavo facendo assolutamente niente. Sì. Eppure io già sanguinavo e lui mi ha manganellato. Ti ha manganellato quando eri per terra? Sì. Senti una cosa. Senti una cosa, dunque, secondo te non è stata una cosa, come dice lui, come dire, fortuita il fatto di essere passato sopra? Cioè, lo ha fatto proprio apposta di essere passato sopra con il piede? Ma non penso proprio. Anche perché si vede poi un'altra immagine, un altro poliziotto che è lì che lo ferma con la mano. Quindi molto probabilmente aveva visto come era il suo comportamento in quel momento, in quella giornata, e ha capito che insomma era bene che si fermasse. Cioè lo ha fatto apposta, è passato apposta con il piede per far male a Deborah, giusto? Secondo me sì, se no ci si racconta delle favolette. Senti una cosa, oggi Libero pubblica, ieri in realtà anche su Dagospia, delle immagini per cui sostanzialmente si dice e si sostiene tu sei lì a proteggere, questa è l'immagine che è stata diffusa, a proteggere la tua compagna, la tua fidanzata, non so cosa sia, insomma la tua amica. In realtà poi prima hai partecipato agli scontri col volto coperto, eccetera eccetera. Hai partecipato agli scontri e tirato qualcosa contro i poliziotti? Questo me lo puoi dire? Non ho tirato assolutamente niente ai poliziotti. Non hai tirato nulla ai poliziotti? No, ma non c'è neanche un video che lo fa vedere. Vabbè, quello non c'entra niente che non ci sia un video, te lo chiedo. Cioè... No, ma dico anche che non è possibile che ci sia, perché non ho tirato niente, assolutamente niente. Tu sei andato lì pacificamente, perché avevi questo foulard rosso, avevi il volto coperto, scusami? Perché i poliziotti sparano lacrimogeni e quelle cose servono per proteggersi dai lacrimogeni, tutto lì. Ma nelle foto che sono state pubblicate da Libero mi sembra che ci siano anche delle altre cose. Tu hai in mano forse un bastone o qualcosa? No, forse no. Hai i guanti? No, me l'hanno già fatto notare, ma è perché la prospettiva che è messa un po' strana. E... No, se ci fai attenzione non c'è proprio niente. Ma... Non hai niente in mano, non hai tirato nulla. Non hai tirato nulla. I violenti, in quella manifestazione i violenti sono stati i poliziotti, non i manifestanti? Eh sì, è abbastanza evidente. Cioè voi non avete fatto nulla? C'è la gente che tira le bombe carta, le molotov, chi sono? Scusami. Non so, io non ho tirato nessuna bomba carta. No, d'accordo, tu non hai tirato, dici di non aver tirato nessuna bomba carta. Non aveva l'impermeabile blu lei, no? Però ci sono quelli che l'hanno tirata le bombe carta contro i poliziotti, si vede chiaramente, qualcuno se le è portate queste bombe carta. Non sarà mica giustificata una cosa del genere.